in Chivi. Siete entrati adesso, sono tutta la sera, quindi non ce n'è nessuno, capito? Allora che viene da cucca, mi gatta entro di lui. Hai capito il discorso, Alessa? Sono stanco, poi non mi sento tanto bene, per quello anche che me ne vado a letto il più presto possibile. E cappacata, non sai cos'è Natalì, che vabbè, niente, travaglieni, magari gli orari migliori per entrare a parlare giochisci. Ma è che dopo ne sono troppo sicuro che non sei musori, devi venire solo in traio e in trilli. Ma che l'ha fatto Gianni, Bumolino, che l'ha fatto? Io se voglio dirti va buono, non so. Non lo so perché l'ultima volta sarà una settimana fa che l'ho incontrato io a Gianni, è venuto al negozio. Ma non voglio nessun problema, a meno che non si deve fare un barracco, ma non credo, Ma che c'è inteso? Ne rimane in oggi? Magari stanno facendo cosa, o magari sono qualche altra frequenza, e che ne so, non esagio. Ah, io comunque se siete in ascolto, non fate di manare un cardine, chiedi di entrare. Non capisco, prima ti dico sto baracchino, da dove è nessuno? Lo so, purtroppo, dopo un medicente dice che c'ha la passione, ma è di cosa? La passione, chissà non è passione, no? Chissà, para noi che siete buoni. Guarda, io l'ho messo per comodità qui, ma se no anche messo la polizia, se lo saputo. Cioè, lo sai cosa devi fare? Cerca di metterti l'antenna un po' più in alto tu, perché esci bene, però con quell'antenna in terra che hai, mi sei comprendendo, esci male. Non sai cos'è, adesso aspetto anno nuovo per risolvere del tutto. Tu dicevi, passa domani che te lo regalo io, 6 metri. Sono 18 metri buttato dietro la piazzale. Non ho capito, ma hai detto 18 metri, e l'anima, anche se la devi munire, non da Monte Bianco. Cupico, 6 metri l'1. Deve essere che queste cose che ci sono sopra dove passa quel trenino fanno contatto brutto, chi non intende nulla, brucia i nomi, lo sai. Lo so, quella è corrente che ti passa sopra la testa. Gli sono passato sotto, ma tu dovevi sentire un fischio, l'ho dovuto anche abbassare. Lo so, lo fa. Adesso si sente bene, adesso sì, chiaro, lo sai. Ma ti stavo dicendo, se tu metti un po' più in alto quella mantova che c'hai per terra, lo sai quanto esci forte? Perché già mi arrivi 9,20 in ogni parte di Sassari. Lo so, adesso aspetto anno nuovo che facciamo del tutto alla perfezione. E da poi fregatene se non vogliono entrare, intanto la cosa è così, è come una ruota, gira sempre, no? Dopo se ne va uno, entra l'altro, dopo se ne va l'altro, e non c'è un problema. L'importante è che esista la frequenza, la 27, perché sennò cazzo così muore. Ma guarda, i tempi che erano tempi, anni 80, 90, la 27 era strapiena anche nei 200 canali. Lo so, ma vuoi vedere che ritorna indietro quei tempi? Sai cosa? Mi ha chiesto comunque, secondo me deve ritornare per forza, perché adesso già costano poco queste cose, quindi di conseguenza io penso che vedrai, va, io sono di buon spiccio. Devo che rientrino tutti in frequenza come gli comanda, ma non ne dubito. È una bella cosa, non può perdersi, capito? Non si può perdere. Guarda, se non fosse per camionisti, non ti sei, siamo già scomparsi nel 27. Secondo me, allora, lui fai dei telefonini, ma comunque, io ho notato che invece dei camionisti c'è un giro bello, perché praticamente li sento nel 45 o anche nel 5, e sono sempre uniti, i doghi. Secondo me il canale del cittadino che non tanto funziona. Lo sai già adesso, che il telefonino alle volte rompe anche le scatole, capito? Molto spesso. No, non mi stai capendo. Vabbè, a parte prescindere dal fatto del telefonino che abbia rovinato la frequenza, non ci piove. Però io ho notato che nel 5 e nel 45 i camionisti sono sempre uniti, sono sempre loro, non si sbandano, non una sorta di gelosia che non ho capito per quale motivo ci debba essere, ma comunque, quello hai veramente ragione, però addirittura ci ho fatto la vita, perché ogni stronzata ci chiama al telefonino a qualsiasi ora, al giorno della notte. Gaba. Anche per lavoro, una stronzata, al telefonino ci vuole sempre le scatole. Io lo amico con me, voglio il telefono, cioè gli ultimi usciti vi avvio io. Vai tranquillo che se usciva un telefono nuovo, tu mi guardavi, ce l'avevo. Adesso mi ha rotto talmente le palle di questo telefono, che ho un telefono che funziona al massimo con la SIM. Vabbè, io ho un telefono che un Motorola, che se lo vedi mi trovate in testa. L'ho riparato già 6 volte. Permetti che negati qua questo passaggio. Ho un telefono Motorola, l'ho riparato già 6 volte con i microfoni e non lo voglio cambiare, non me la fotti nulla, i telefoni nuovi, i videotelefonini, con la TV, non mi fotti più nulla, ormai. Ieri, proprio ieri mi hanno proposto 200 euro, tranquillo con il telefono e con tanto di scontrino, libretto, tutta quanta la scatola. Ce l'hai presente quello che stanno facendo la pubblicità in televisione? Quello... Com'è che si chiama? N95 mi sta dicendo mio figlio, Nokia N95, è quello che sembra una lavagna per il vetro, mi. Pochi Zoro, non c'è neanche un tacco. Quello già è bello, ma per lavoro lo faccio io il telefono, solo lo faccio una settimana a pezzi. A pezzi adesso. No, ragazzi, ma parla perché pensavo che non stessi parlando, non ti senti più qua per la fedele da strano. No, quel telefonino a me adesso, sai del problema, facendo il lavoro che faccio io, il fabbro, mi dura una settimana. Ma scusa, il fabbro, ma chi quando sei travagliato ha il telefono in mano, sai? Non vedi che lo pone in busciata, o se no lo pone in un altro luogo, non è che devi lavorare col telefono in mano, amico mio. Vabbè, dopo, prescindere dal fatto, esistono le custodie, le protezioni. Guarda, io sono risolto, scusa il telefono, ma non rispondo con la mano in sporche di... da dal ferro, capito? E si rovina il telefono, e il microfono parte subito. Gaba, gaba. Dai, vabbè, capito qual è? Quello a punch, così si chiama, però comunque, visto che fate una reclama in televisione, che è grande, un po' grandetto, 250 euro vuole. Già lo so qual è, già lo so, però non... Sai, è bello, però è troppo delicato per la mia marina. Cioè, com'è che io sei di zero? Cosa? Ciao, ciao. Ma tu sì? Figlia. Che suoi, che amico mio, che suo telefono famoso al vendendi. Ti costa 20 euro, goscia. A vale si da vendendi 250 euro. Oggi ti mai fasciato, eh? No, no, mi guarda, tanto poco nuovo, veramente, Natali. Però devi, dopo devi portare la scheda tua, paga altri 50 euro, vai scriviti internet, un po' di saldosa. Vabbè, è interessante l'argomento, ma io non sono a Parigi, no? Dai, Tino, Sandro. Oh, dimmi. Tino, Ah, è Tino? Vabbè, io comunque io ho visto quelle rodizzenti, io ho visto quelle vendenti. Mi interessa? 2,50. A me non interessa, a te ti interessa? No, no, negativo. Sì, comunque. Non ho capito, cioè tu mi hai detto solo la prima per caso. Io ti ho risposto di sì. Che ti ha pagato? Ma voce, dalla potenza che mi stai arrivando mi sembra di lui, anche dalla voce, dalla modulazione. Vabbè, no comunque. Però sinceramente anche il lavoro che faccio io è un po' delicato. Gaba, un affare, chiaro, come cosa comprare io che non faccio di la potenzialità a livello di finanziario a comprarmelo. E poi non è neanche troppo, 250, mi sono informato che costa sulle 500 quel telefono lì. Lo so. Ok, non l'hai sentito? Ma ancora no, perché... No, verrà domani sicuramente, poi si è andato il cancello a noi. Ma vabbè, titolo informativo, Ma io stamattina sono uscito, poi il cancello va bene. ritorno, ho proprio il cancello, ci ho fatto, boh, un braccio partito ci deve essere. Ecco un attimo, ci sentiamo dopo a casa, dai raga. Alex. Capito, ti sono andato per il cancello, dopo pranzo ho proprio il cancello. C'è bloccato il braccio principale. Ehi, vabbè, già abbiamo un tecnico in famiglia, Che sfiga, però, Dopo non ci voleva, Io lo spogliatore, dopo il cancello. Ma che sfiga per chi? Per lui? Per lui! Qui, ma, stamattina vado a spugliare, mi sono fatto la cordicella. Ma facciamo che cancello, ho detto, qualcuno sta buttando le fatture a noi, Giulia, mi sa che è destino, è un po' per tutti, cioè è per tutti anzi. Comunque, nel caso, se proprio deve venire da me, dille di ritardare un po' i tempi, perché sto parlando anch'io al lavoro, quindi sicuramente rientro un pochino tardi, non come al solito, Io che dico di passare da... Io sono... se ne viene bene anche sabato sera, lì. Giusto, perché noi sicuramente rientro tardi, quindi tra una cosa e l'altra, anche domani sera va bene, cioè dopo domani sera va bene, sabato sera verso il sì va bene, Poi sabato con l'orecchio? No? Ti ho portato l'orecchio, te lo porto sabato. Non ti ho capito, aspetta un attimino, cosa Cristi, c'è la bambina che fa va? Ti ho portato l'orecchio, te lo porto sabato. No, va bene. Sì, piccoli, mini 4. No, oggi ce l'ho con me, la palattina. Ehi, ehi, vabbè, come sta il bimbo? Sì, già va bene. Sempre asilo alla grande? Se ce l'ho con me la palattina. Ui, ui, ui. Cosa è successo? Aspetta, ma di cosa stiamo parlando? Del bimbo piccolo mio o dell'altro bimbo? Un piccolo tuo. Lui c'ha la palatina perché l'ho fatto presto e non voleva i pantaloni e mi diceva, beh, ma tu gli hai fatto la cosa per i pantaloni. E però non voleva i pantaloni, ci ho offeso e ho lasciato a farmi le pernacchie. Come Emilia, dai, uguale identica. Cioè, vuole bene, sui tanti anni, e poi ce l'ha come la campagna. E te? Vado lì, sì, che vado a mangiare. Ci sentiamo lì, salutare a tutti. E ok, ti dà la sua frequenza, dai, nel caso, se sono qui, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Attenzione, allora, canale 21, ecco. Poi gli ho dato un sottosale. Una lagna mastodontica ho preso. è una seggiola, no, una seppia che ha presa l'amico mio. Una seppia e un macione ben mio, va. Va bene, no. La cosa, te l'ho detto quante ragazzi, 800 grammi è pesato, perché non mi ha avvisato che si manca. Io sto già io sto giocando da chino anche. Io non sto parlando di oratte, sto parlando di tracina. Sai cos'è la tracina? Sì, che la conosco, sì. Così grandi non le avevo mai prese. Di oratte ne ho preso anche molto più grandi di un chilo. Io non facevo la tracina, lo sai, lì l'avevo presa a farla, forse vicino a Farao. Ma grandi così? Così. Io non ne ho mai preso, ti dico la verità, cioè quelle che prendo però erano piccolini. Però era un gommone. Vabbè, io sto parlando a terra, io ero tra quelle rocce che ci sono dopo la Pelosa che vanno di fronte quasi alla torretta, non proprio di fronte, prima della torretta, e vanno verso l'isola Piana, dove sono le correnti lì. L'isola Gabbiani. E vabbè, non so come si chiama, comunque fatto sta che non mangiava nulla, non mangiava nulla qui, l'americano, allora mi è venuta questa idea, ho detto adesso provo a fare una specie di trana leggera con l'esca, tanto è tutto sabbia, ho fatto questo cupero leggero, sento pum, canto la dirada, giù contro la farzata, lui, a vedere se la giubiliata. E piano piano, non è gli artificiali piccoli, non avete? No, c'avevo solo, così, come si chiama, tottanare, come quei artificiali piccoli? Non stava mangiando nulla, non veniva a pescio. A Porottose invece poi ci siamo trasferiti perché non mangiava più, diciamo atti al modo che andavo io sempre e mangiavo a profusione, ma non ti sembrava ci fosse le piranha, i piranha, però era roba piccola secondo me, non ti lasciavano l'esca e manco di TV. Era roba piccola allora c'era. Ho pescato un paio di boghe e poi mi sono andato, perché erano tutte boghe, c'erano branchi di boghe. Invece l'altro giorno sono andato a pescare io, c'era una mare di meduse enorme. Vabbè, ma come sono le meduse, vanno sempre dove c'è il mare pulito. La pescavo sempre noi all'industriale, c'erano masse meduse, erano grandissime. Ma di quelle tipo paracadute, di quelle avrà portate la corrente allora sicuramente, perché lì è sporco, sono state morte, Antonio riprendi. Ho finito il video, Giacomo. Giacomo, un attimino già che sto risolvendo una cosa, dai, riprendo subito. Ehi, chiamaci tu Antonio quando è finito, va. Comunque solitamente quelli lì vanno dove c'è pulizia, dove c'è l'acqua pulita vanno le meduse, quanto ho letto in questo libro, però magari la corrente li ha trasportata, mareggiate e cose, c'era una mareggiata l'altro giorno quando siamo andati a Platamona, il piombo da 200 te lo riportava in riva. Ma queste cose qui erano delle bestie, erano vive ma grandissime. Io ho capito, quello è tipo paracadute, ne ho pescato una col coppo, una volta non ci va a sollevare la gatta pisana. Sono enormi, cazzo. Sì, minimo erano un 50 centimetri l'una. E dopo quando l'abbiamo salita, ne ha buttato tutti i pesciolini che aveva acchiappato, c'erano belli pesciolini vivi tutti dentro. E poi c'era lo spigolone in giro. Vabbè. E comunque c'era anche a produttore, qualche cosa di predatore c'era, perché ogni tanto saltavano i pesci e poi si vedeva guizzare, ma non si capiva cosa era. Era un po' lontano, là. Spigolone in giro c'era, quello che fece serra. E già c'è Massu Salvatore, il Kiwi, di Bisombetto. Sì, magari. Invece un bel gommone andrà a pescare seriamente. E mi stavo andando a Paraluia qui l'altro giorno. Abbiamo fatto un bel di ore, ma un bel baro, Ti parlo che siamo andati verso le 10:15, 10:30, e siamo andati verso le 7 di sera, così. L'altro giorno sono andati verso le 10, sono stato a mezzanotte. Ho fatto un turno freddo, c'è. Ho già. Eia. Chi c'è in ruota? Io e Cristian, perché? Caffaga. Se non avevo capito chi c'era. Come no, Antonio? Non credo che c'è qualche altra persona. No. Se vuoi riprendere, riprendi, non ha finito, vai. Ma per oggi sì. Via. Cosa stavo dicendo, Antu? Bisogna che ci attrezziamo e andiamo un giorno, tutti quanti insieme. Dove? Piscare. Comunque l'ho fotografata prima di cucinarla, stasera. Fotografata. So che era un bel pesce da zuppa. Sono andato e mi sono comprato al mercato un po' di pesci da zuppa, li ho fatti insieme e abbiamo cenato. Avete fatto bene, Sciuga. Non so se ti ho fatto un'aria, lo sai. Vero. Ma non è quella solita. Perché usare la manina? Diglielo. La gaffa. Andiamo a vedere. Anche se sembra bene, no? Se l'avessi fischiato, tanto vabbè che non è nemmeno fischiato. E se attacco un fischiato fischia. Ehi. Io sono come che fa originale, vai. Ma mi sente che schiamo, eh? Te lo senti, Antu? Senti, Antu. Mi senti? La tua gatta. Vabbè, dovete accontentarvi, eh. Sì, io ti sento benissimo, Antu, non c'ho nessun problema. Perché non ti avevo riconosciuto dalla voce. Chi è questo qua? Non me la ricordavo la tua voce così, capito? Stai cominciando a dimenticare. Beh, è andato il primo periodo, poi è andato sempre gli amplificati. Non te l'ho fatto conoscere, te ne sei innamorato di quell'amplificato. Raga, ma non lo posso attaccare. E vabbè, attacchi in macchina, Antu. Io 5 in macchina. Aspetta, attacco il cuffio, no, perché è già con raccia, ragazzi. Hai visto, anch'io volevo attaccare. Datevi 5 secondi e poi vi metto le cuffie. Dove hai detto 5 in macchina, se ce l'hai? Ecco qua. Sto uscendo Antu. Ma no, sì, io le cose qui. Sì, io faccio cosa tua. No, non posso fare portanti lunghe molto. Aspetta, stazionaria. Non sono d'accordo, il segnale prima eri quasi 3, adesso si sente 1. E quanto ce l'hai stazionaria? Non lo so, non ne ho idea. Ma all'interno ce l'hai? O fuori. Cava. E anche io sono stazionaria, mi già non ti credere. Adesso sei dalla parte tua. Casino è già. Ma nella stanza dove ti metti tu sei? Già. Yeah. Raga. E questo che apparecchio è? Piccolo. No, gioco bene. Una radio abbastanza forte. È forte e chiara soprattutto. Solo che la timbrica m'ha fottito. Non riuscivo a... Che ti ha fottito? Vero. Ricordavo questo tipo di tipica da parte tua, vabbè, comunque, andava così anche. Normale? Sì, più di una volta, ma l'ho ricordata, non ce l'avevo nell'orecchio, boh. Cioè, uno che è abituato a sentirti sempre bello, bello pimpante, forte, sì, bene, però è sempre un microfono normale, dai. Faccio una corraccia, cosa posso fare? E vabbè, vediamo le gadget da Ronito. Vediamo. Cava. E vabbè. Sai che già vuoi fare? Corraccia mi da tutti i ribaschi. Viene pure un enoghi, cauci, come ti tacciavi? Subito già c'era un balcone a venire la silvente. A contare i droghi dell'altro. Sempre. Un'abitudine, guarda. Non marito invece lo chiamavamo in temporale. A chi abitava a Ruzzi, da voi più come ti faceva. Allora lo chiamavamo in temporale. Poi lo strip. Oh, una volta gli ho fatto un saluto. Salutata. Chieri in mutandina. No, l'ho salutata col dito. Io anch'io la faccio alle macchine molte volte, però... Dunque, stavamo parlando anche stamattina, era il rifornitore, c'era questa ragazza che faceva una 500 di quelle vecchiotti, tutta truccata, faceva i 100, 150, un motore truccato, Cioè, va Giannini come l'ho avuto io, no? Stavo parlando, mi ha detto, vabbè, non è che mi piace ancora, e poi sono appassionato di macchine elaborate, così così. E mi hai diretto io a farle. È stato un bel ha detto, tutte mocchette, tutta fatta bene, ma di lui se non sembrava manco una 500. Tutta elaborata, bello stereo, tutto quanto. Fatto sta che stavo parlando proprio del quadrato. Detto che lui molte volte sale, no, lì perché ha degli amici e cose, si ferma con la macchina, dice che rimane a bocca aperta come camminano, dice quella roba lì hanno preso come una pista, bisogna metterci delle pattuglie in borghese, no, come ti hanno fatto a me che per una lampadina mi hanno preso 75 euro di multa del Dravaglieri, il Gurgol. Lì dice ci vuole qualche controllo, c'è poco da fare, invece metterne un paio all'inizio, poi alla fine, sempre in borghese. E lo vedi come ti ribizzigheggia, solo che sa, c'hanno lavori più urgenti da fare, non le fanno di queste cose. Non sai così già. Che fa di dal male, ve la senti, cioè, chi fa le cose sbagliate ce la senti dietro. No, io fare cose sbagliate sono sempre lì, chi invece è onesto, il coso, attento, guidando, il coso, è la prima volta che sgarra senza rendersi conto, la paga. È sempre così che capita, purtroppo è così. Questo si è lamentato, dicevo qua, non sono tipo che mi piace correre, cose, mi piacciono le macchine elaborate, te hai il motore perché te l'hai elaborato. Ma io me l'ho elaborato perché se mi voglio fare un giro vado per dire in pista me lo faccio, capito? Però quando sono fuori sono normale camminare. Ma però questo qua l'ha portata in strada così. Allora è truccata a morte, mi pare che sia 700 di cilindrata. Dovrò portarla solo in pista. No, vabbè, fuori legge, tu, senza ombra di dubbio. Tu se la vedi dentro come è fatta, c'ha contagiri, il coso per l'olio, la pressione dell'olio, a parte, tutti quanti a parte, insomma. C'ha il contagiri, contachilometri, tutto quanto separato, no? Bellina, tutto quanto è mocchette, tutto il cruscotto è mocchette, fatto bene. Tutta dentro mocchette, tutta di lui, tutta rivestita bene, che se non era te la fatta bene, i sedili in pelle ci aveva. Non lo posso immaginare. Detto che se l'ha tutta elaborata lui. E quella macchina lì non la venderà mai, ha detto, mai a nessuno, perché sono appassionato della 500, ne ho preso una e me l'ho voluta fare come volevo io, come desidero io. È un ragazzo giovane, avrà avuto 35 anni, penso. Capogaffa, quello ce la tiene come, ce la tiene anche come auto d'epoca, come queste qua. So che fa anche le sfilate, quando fanno le sfilate dei 500, è iscritto a un club. Non se vuole dire, hai ragione. Ci con Antonio sto parlando. Antonio Lucchi. Un buon, ciao Lucchi. Ah, qua non è che arriva, Lo so, perché sta scendo con un'altra stazione. Pensate più debole. Luca. Andale, vatte pure, vatte. Devo resta, non ci sono problemi. Io voglio andare a cantare, Nino Canterino. Sono Luchettino. L'altro che deve cantare, se no guai. Allora, siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema. Capita, così, buono, nella fare i macchi, ci sono di... Lo so, oh Luca non mi arriva, cioè mi arriva bassissimo. Non gli arrivi manco tu. Lo so. Che io? Gli arrivi bassissimo. Da lui? Ma dipende da lui, non da te. Beh, già. Lui si trova a Sassari, ok? Vabbè, è suo a 900%, a 1000%. Vabbè, non c'è problema, io comunque qua, no, non è che lo smetter mi muove. Ciao Cristian. No, detto si è abbassato, come segnale. Io? No, no. Qua è tutto sotto controllo. Perciò non c'è problema. Scusa, cioè, l'ombolino è piccolino adesso, fallo crescere. Lui ha abbassato come timbrica di voce, magari, come segnale. Ma mi arriva sempre, un po' più basso di segnale, ma mi arriva sempre, ma... Luca. No, Antonio. Ah, quella da te perché è più vicino, mi ha dare più vicino. Quello sì, avevo un po' mai di dubbio. Va, sicuramente va meglio la radio ora, sicuramente. Vabbè, faccio un paio di maniche. Io ho l'altro, lo uso, non dato l'altro come lo uso, già per cantare. Ehi, ma per me è sprecato usarlo là, quello qua. Qua ti faccio una bomba. Tu le connessioni, ho fatto lo spezzone. La tavoletta l'ha fatto Franco. Però le connessioni non le ho toccate. E come sei? Questo non mi copro, non ti avete un altro malacchino. Se più nemmeno. Con il cavetto, eh? Si deve, però a Budrava un attimino, gatto, ci puoi è chiuso. Chiuso lì da circondario dove abiti tu. No, va bene, Luciano, dai. A parte che non ci prendi gusto, ma non è la casa sul tetto, è la musica, parli con tutti. Allora poi ti disegnare uno, poi ci parli, facci così, non lo senti. E quello è tutto. Ma vedi un po', vedi un po' di chiarire. Se non mi fate una cosa, vedi che tu vas a casa e ti rimane tutto a cagare sì. Ma tanto cosa vuoi fare? Tu mi sei considerato che sono sempre così, a rompere le palle, allora come cambiare casa e si ammazza, ripeti la cosa, ti devono andare a vite. E voi siete più tranquilli, è quello. Tranquilli e sereni, senza rompimenti di scatole di nessuno. Perché rompiscatole ci sono sempre. Guarda, io un giorno ho trovato una signora. No, non una signora, un marito. Dici, ma mi sa che era la tua, ma tu mi sono chi non vengo, come fumare, mi sono male Santella, ma ci sono io, non si so come vedere, non ti passa di volte che lo maracchino, ma come mi dici in meglio, a me non mi dici in meglio, allora non te la pulimmo, allora vedimmo, non so ci muoia già una pulizia, non so cura, c'è di competenza, faccia quello che vuole, sono in regola, non ho problemi. Ma infatti, quello il coso, allora, a più di una persona poi ho detto che è un'antenna satellitare, ma c'è giù. Ah vai, le cazzo di distrattore va, cazzo mai non si dimo a cuore, chiaga che te deburo a noi, lui. Sì, e ragazzi, magari da me si te deburo a me, che non fai da me, ad invito, venga. Mi sente? Antonio, Antonio tuo fratello, Antonio Riserva, l'altro giorno che stavo parlando delle antenne, detto, prima la metà a Cristian, poi la pianto io, l'ha ripetuto la stessa frase, e poi dice che ha sentito anche a me. Guarda, già se fate scherzi, a casa mia di subo con 4 watt, io so perché. Dimmi, fai il quesito, dimmelo direttamente. Il problema non è l'antenna, è l'applicazione d'antenna. Troppo forte, così? No, no, quello del televisore, che è un applicatore che non che costa poco. Non è quello che c'è la prova che è buono, questo costa una metà ciofecca. Ma l'ha visto che anche se ti abbiamo messo un applicatore che non serve. Un altro a disposizione. Ma non è forse del video? Tranquillo, non ti ho fatto i video, io ti sento lo stesso. Io lo stesso ti sento tranquillamente tanto. Niente, Luca. Chi già, il problema. Sei solo quello lì da me, basta. Sì, vabbè, che va tu sì, in campagna è diverso, là. Stai, non stanno a romperti le scarpe, invece lui è in palazzo. Lo siamo in palazzo come me, come lui. Che abita a fianco a altri inquilini. Però c'è sempre quello che ti rompe le scarpe, è proprio di... Ah, adesso sto uscendo, durante un vaso quasi. Sto uscendo un vaso. Curati, è quasi un neanche un vaso sto uscendo. Pensiamo di turbo a mio padre, non peraltro. Grazie. Posso abbassare alla posta di 4, metto un vaso e se mi sento, non mi sento. E Luca lì è. Si già cantente, me. Questo già. Ah, e poi per legge, cioè, per legge tu hai veramente la Mantova. Cosa? Ma per legge, la Mantova non si poteva mettere neanche. E lo dici a me, qui gioco 35 anni frequenta, adesso questo si poteva mettere no. E non prima potevi piantare. Perché la Mantova era 5 ottavi, non 4 onde. E vabbè, ma adesso non c'è proibito niente, non c'è scritto. Ma adesso non più, adesso puoi usare tranquillamente. Non so, con le direttive prima si poteva usare per la 27, adesso non c'è scritto più nulla. Ma che vuoi la direttiva là, sul tetto? Ma non ci sta la... La 27? Anche. Okay. Fanno proprio specificatamente per la 27 le direttive. Ci sta sul tetto, normalmente non ci sta purtroppo. Cioè, praticamente io posso fare una cosa, quando parlo con te la butto verso il tempo, quando parlo con l'altro la butto verso l'altro, devo sempre fondo scala, oppure trovo un punto centrale dove arrivo. Esatto, un punto neutro a tutti, schiererebbe la palla a tutti. Anche se non ha palla che mi sentono tutti. Pure la direttiva ci sa che è un'antenna direzionale, quindi appunti arrivi fondo scala, se non appunti a volte arrivi anche bassa. Non si fa una direttiva, appunto, questo Salerno. Colpiamo tutto. La voce è calda della frequenza. Lo so. Non ce l'avevi, ce l'hai ancora. Luca dice bene, c'è cambiato in casa, grazie, ma non è così facile cambiare in casa così. Infatti è per quello che non parlo, e so tutto com'è. E poi basta, vai, trasferisci in un'altra casa e trovi uno che parla anche dall'altra parte, cazzo. Sono l'unica, poi c'è una casa in campagna. E quella è vera, bella isolata. Oh, anche con vicini, però una casa in campagna. E che poi ha fatto quello che ti pare piace. C'è il segnale buono, là. Cavolo. Allora sì, la parte è prossima. E ci hai attaccato la antenna. Chi lo ti pone l'assa tra tua casa? Così non la vedi. E tu esci più forte. Vabbè, come vuoi. Ma c'è un specchio, un dipolo. E a chi si è rimutata a buco mentre manganello? Mi è fatta pulsa, un bel manganello lì. Ma non ti ha capito. Non farlo tu. Ma bella. Fammi assaggiare un po'. Gino, mugino. Cosa vuol dire mugino di là per fare un coso? Bah, è in piedi, la canurese. Mugino. Ho già lo sa. Lui è quella zona lì. Così è. Parolacce. Allora siamo con i facconi. Come? Verità già? L'ha fatto Antonio. Sì, sì, perché io l'ho fatto. Chi l'ha fatto lo sapeva fare. Perché io non lo so fare. Lo fratello lo fa bene. Non ci ho sentito di Falcondo io. Cosa? Non ci ho sentito un tempo. Beh, poi a chi si è uscito? Hanno fatto il sito su internet. Ah, vero? E allora, verrai tutti lo schiuma la barba, hanno fatto il gavetto di schiuma la barba, tutto bene in faccia, non li beri. Sei basta, poveraccio. Poi c'è scritto Falcone a Castroncaro, e c'è lui che canta Viva la papà, popopopo, d'oro. Poi si inventa anche le parole. Cantava canzoni di Gianni Morandi, di Gold. Poi Falcone che si incazza, Falcone Piero Drago, Falcone per dire Luca, e c'è tutti gli sketch, no? Proprio che è l'onfio. Era fatto la sciampintata da farlo usci bene. Ma sai che va a prendermi a farlo, fatto bene con tanto di fotografie sue, capito? È chiaro a farlo. Ma c'è qualcuno che serve a com'è di Brucchio. Ho messo la fotografia di una partita di calcio che avevano fatto, mi pare, CB di Polotosi contro CB di Sassi. No, facciamo i tournée anche, no? Vedo tu pieno completamente, si chiama la barba spray, tu pieno nei ribelli, i vestiti, in faccia, solo gli occhi c'ha liberi, davvero si è appagato le dita. Ma tu conosci il padrone, mi ha apparato, conosci anche l'ex padrone. Cosa? Tu conosci l'ex padrone del mio apparato? No, non lo so, chi è? Marcello. Marcello? Marcello? Ce l'ho due Marcello e frequenta. Boh, non lo so, non me lo ricordo. Ah, Marcello Mastro e anche non è lui, l'altro Marcello. Me l'attivo, non è vero? Sì, non me lo ricordo qual era. Mastro già me lo ricordo. E l'altro Marcello. E non lo avevo durato? Vicino a te di sorso. Beh, fratello di cosa? Di Benito? Di Maurizio. Maurizio, non mi viene, non ce l'ho presente, là. C'è un chiappone arrotolato. No, non me lo ricordo più, dai, non me lo ricordo, probabilmente non lo conosco. Non mi ha parlato, non lo durava. Poi là. qualcosa, l'ho 2001. Io non sono quello. Io non lo tratta, non lo tratta. No, c'è la mia frate. Ah, non è il tuo. Guarda, ragazzi, che sto comprando, figurati. Te lo vedo. A me sì. E quello è un bel apparecchio. No, già ecco. D'estetica, però come interni è bello, lo fanno di roba. So, però non c'è ecco, basta. E la deve affondare, ecco ce lo puoi mettere dentro, ci metti la scheda. Tu come posso mettere la scheda ecco, anche da me, ma non la tutti, non mi interessa. Allora, te ne frega, se non ti interessa la scheda, a me piace ecco. Non mettergli... Ma sono devi farlo dentro io. Via via. 60, mi sa io la metto. Ma cosa ti fanno? Vediamo sempre tu qual è. Ah, ma quanto? Ma certo è da 60, lo fanno anche adesso. Quindi da bene, roba. E vado già basta. Te lo metti all'interno. Metti all'interno, se lo metti, lo metti caricati e basta. E va bene, hai di quelli di Rersi, quelli fatti apposta per mettere dentro gli apparati. Vabbè, è fatto a fugito come mettere dentro, per applicare all'interno. Eh? Non devi tenere niente sulla seta civile. Vabbè. In casa, tanto, all'alimentatore ne ho 25 ampere, ma appena. Tanto? Come, 25 ampere dell'alimentatore. Vedi tu, ho visto certi alimentatori su internet, cavolo, anche da 50 ampere 130 euro, 139 euro, se non mi dico questo se da 50 ampere devo pagare anche la testa. Beh, arriva anche 60, 70 ampere arrivano anche, però con 30 kg pesano, eh? Io lo so, questi che di qui non pesano nulla, perché sono a scheda. Stessa marca del microfono. E un video fanno bene. E Proxel Switch. La Proxel è interno Switch. Sempre 50 ampere. L'unico alimentatore per alimentare tutta la stazione. C'è un vittore, baracchini, non so però, cosa ne metto quello lì. Ho messo due cable. Beh, due si è 80 e te ne metti a fianco. E te la metto a questo, e te la metto alla grande pura. E beh, dove sei? Ah, sto addormentando, cazzo. Ma che bisogna, non la faccio nel caschio. State parlando insieme con Antu. Vai qui. Oh, noi siamo sempre il segnale. E non so parcheggiare anche. Non è successo. Aspetta un attimino. Tocca lo spinotto dietro. Adesso sì, adesso va bene. Oh, quindi sta che il piede della testa stacca il piede. È la massa dello spinotto che non fa bene. No, è la pelle mezzo svitato. Aspetta. Adesso ancora l'ha toccato oggi. Ma se questa mano c'è una pulizia. Non la svitate sempre. Non l'altro. E non faceva bene massa. Esatto, appena stavo uscendo mezzo fatto. Stazionaria a 1. Si sento benissimo. Ma non lo so, ma mio Dio per la 3. Io non so come si chiama la cosa. Te lo dice, allora faccio una parte mia, anche mia cugina. Una cuginetta. Che addio. No, cioè, si vede un'automobile messa sul tetto. Io qui ho due antenne. Ho una antenna appoggiata sul muretto a casa e c'è una matta sul tetto. Ho l'antenna nuovo, però non mi piaceva come stavo uscendo, non subito tolta. Avanti, ma no, l'ho messo a posto, non sono salita su. No, ancora no, ho stato in aria 1.3, 1.4. E non sei su, non sono accordata sui canali alti sicuramente. 1.5 non li supera, non è fortunatamente. Massimo arriva a 1.4, ma anche 1.5, ma però non li supera. Adesso gli assalgo quando c'è un po' di tempo, ma si stiamo bene. Per cui già stavo andando abbastanza bene. Già mi sento anche a Itti, e sono soddisfatto. Da io devo aspettare un po' di tempo perché mi decido di parlare del tetto. Un po' di tempo decente. Ma mi sento così direttamente, me ne frego. Non voglio voi le mette tirate, contorsionate sul tetto, non va di più gara. Questa è la grattacevole più alto. Ah, quella gente, se me la metti, la messa la vedetta della window, al grattacielo e viano cavallo. Lì sopra mettilo a vedere, con una coda legata ai piedi. L'ho detta, quella gente sta facendo tu, li metti una coda legata ai piedi e li metti sul cordolo delle tegole e inviarlo a cavallo, al grattacielo. Sono, mi sembra, 15 piani. Va bene, dai. Sul PL ha fatto al naso. Anni. Ehi, ha trovato il microfono. E al buio un casino, l'ho appoggiato, capito? Allora, la frequenza. Oh, sì che c'ho le lucette blu, notturne. Lucette blu, mamma mia. Cosa mai? Perché c'ho le lucette blu? Ma che è mio fratello. Ma chi è tuo fratello? Cosa c'è la ragazza? Si è fatto il quadro alla punta. Blu. Esatto. No, io per starci bisogna fare spazio anche. Tolti led chiave blu, si hanno messi blu. Come? La sera. Perché non aveva più sentito, era disperato. E quello gli serve molto l'apparato, lavorando gli fa compagnia. Cosa vuoi fare? Devo sperare che loro si trasferiscano. No, si trasferisca quella di su. Via, cara. Poi quello che mi hai detto ieri, ancora più giù. Davvero? Ma non ve la danno, E i punti? E i punti stanno andando alle case, per parte della Negrane che sembrano che colleghino, i punti con Sant'Orso, con San Giovanni. Però lì stanno andando, sono case popolari. Beh, quello è ovvio, no? È normale. Non hai calci, non ti danno niente. Ma voi ci avete un punto, tu. Allora il Pierpaolo conta quel punto lì. Che tra noi si è ammalato e cosa conta? Quindi dovrebbero darti. Lo so, infatti. Non per cui, però che poi magari vai in un palazzo e ci sarà altra gente per peggio di chi. E basta fare le cose in regola dall'inizio, si fa fare cosa al condominio, al capocondominio, sopralluogo, vedere le cose, poi darla dopo, fare un'altra sopralluogo a mettere in bianco. Ragazzi, davvero, cos'era un cinese? Beh, non le filmate anche. A filmarle queste cose, poi va da Cantena 1. Non le 5 l'ho mandato io direttamente. E poi ti arrestano per oltraggio a pubblico ufficiale. Tu non è come dici tu, non è che dentro casa tua puoi fare ciò che ti pare, là. Non è che puoi abbattere la gente dentro casa tua, cosa vuol dire quello? Già lo so quello. E non accetto le mani, tu. Luigi di giovane. Di 24 anni al mondo, già per messe. Infatti quello che ha attaccato al palo in Viale Trento, quello lì, e le ha puntato la pistola, le ha fatto baciare di casino. E cosa ha fatto questo qui? Le ha puntato la pistola, a questo era anche attaccato con le manette al palo. È stato un amico mio invece, avevo giro urbano, la cosa pugna a faccia. Ha preso il vigile urbano, al vigile è stato il pugno a faccia, non è sceso. Lui al vigile o il vigile a lui? Lui al vigile. E cosa gli hanno fatto? L'hanno denunciato, però non ha scelto di valutazione, non so. Il giorno fa era libero. Occupato, sì. Sì, perché la federa penale ce l'ho pulita. Ma che c'è questa federa penale? E allora, non ti preoccupi se te la sporchi. Ma questo ci ha abituato. Mi ha abituato perché è una famigliola particolare. Se vedi amici, vai. Che sono amici d'infanzia. Infatti non è un indizio, è carrozzone. Ma che se hai ragione, non puoi fare certe cose, se no passi dalla parte del torto con certa gente, tu di guido. Caro Gianni, nella vita bisogna fare così. E beh, vuole fare, lo fa. Io non è faccio di queste cose. Non neanche. No, non mi sento neanche abituato a questa famiglia a farlo. Non è qualcuno mi ha trovato in passato. Mi ha venuto a reclamare, poi. C'è un periodo che stava cercando questi chiami quelli, ho fatto qua via, lavoro lì a tal posto, vieni e mi trovi lì, non c'è mai venuto a trovarmi. Ma quello lì era cinese, certo. invece di mandarti a chi ci viene a compattere un basso carrabile sarebbe da qui. Mio padre! Vediamo se la polizia mi chiamasse io direttamente. Sono proprio lì. Cazzo, mi hai fatto ridere. Se vedono qualcuno picchiare tuo padre, la bile asciuscio. Fa cappa. No, ma io nel frattempo ho pensato, oh maga, a Pierpa, a tuo padre. E bene. Ma sai proprio lì, mio mozzi, mi radio anzi. Sì, la mia fotografati. Dove c'è fuoco? Voi che ciò che fate dei civici, al Ponte Nuovo lo mandano che l'accompagna l'obiettivo, se vi giovete vi è un casino lì, tutto il traffico bloccato, quando non vi giovete il traffico scorre tranquillo e basta. Ma che ti sento, mi sei fatto nel tutto, e dimmi. Più alto è la voce anche di radio, un bel grossa, cos'è il microfono? Hai cambiato il microfono o l'apparecchio? Male, ti sento un bel forte, capito? Un bel diverso, un bel forte adesso, ma hai cambiato qualcosa? È la faiette quello lì. Esce forte anche. Ehi, ho che tratto io. Ah, il cobra la tua piccolino, ho capito. Va bene comunque. Esce forte, esce. Va bene, te l'ho detto. Ciao Alessandro, non è un altro modo di farti salutare. Pagappa, stavate parlando. No, mi sono intromesso quando ho sentito il discorso, quello l'ho acceso poco fa, quando ho sentito il discorso, vabbè, non ho capito di che cosa si trattava, però ho sentito il discorso che stava facendo Bobolino, no? Cioè, ma come che vedo qualcuno che tocca a mio padre, la G3, Mari, vieni, cioè, cosa aveva bisogno di essere difeso, magari, capito? Allora ho detto, sono entrato per quello. E vabbè, potete entrare anche diversamente, non c'è problema, tanto la gente è poca, se ne entra uno in più fa sempre piacere. Ragazzi, e ogni tanto già l'accendo questa Gigio, la gente si offende il casino come vi gliuro, compari a me nei bordi, che andò a fare un po' di due volte a qualcuno. Iai, senta adesso. Sarà facile, ci vedo già. Beh, non vai a fare il casino, però l'abitano un palazzo, quelli di giudice si lamentano. Beh, anche in campagna a certa ora si può fare più casino. Una volta in campagna di quest'anno in cammino abbiamo fatto una seminata, c'è col karaoke, abbiamo cantato, ci hanno tentato e poi il giorno dopo l'hanno fatto il casinatone. E così, poi siamo al massimo alle 2 del mattino, non di più. No, non ci siamo trattenuti alle 2, c'è stata all'1 e mezza. Allora ho fatto una fase da detto, perché qui vicino a casa, sarà che sono 5 del mattino, con chi a palla. Ma voi non siete attaccati a altre case così? No, voi siete abitati infatti. E allora è come se fossi in città la stessa cosa. Quasi, cioè qua, casi qua a fianco, quelli qui di fronte, qui su c'è un'altra casa lo stesso, non sono degli intervenuti. Anche la porta dove noi adesso è? Io se compro la casa in campagna voglio isolata, di modo che ci possa mettere lì su chi mi piace. E qui se vieni facendo quella cosa dei blocchetti ti fa subito la spia, quello è poco ma sicuro. Ma se non c'è una roba placati tuoi, qui nessuno vede, nessuno falla. Boh, è tutta gilusa, non ci fate da fare i suoi. C'è Luca ancora c'è. Quindi adesso. Allora, che già sono arrivato. Ah, ragazzi, oh cazzo, non fare con questi. Mi tu che mano è più creatura dei luminori. Oh, iaia. Vabbè, pissini, so. Ma infatti, magari le giughebbe, se faceva neanche giughebbe, che cosa. Lo devi fare Alessandro. Vabbè, me lo volevo due così. vabbè, la salire di lì. Basta che non funzioni il rumore, anche chi su di io se mi ha detto burro, guarda che ci sento un po' di casino, quindi digli qualcosa, e vanno burro ragioni. Anda bene. Beh, riesci a vedere. Che passiamo la voglia da un altro, dai. Boburì. Ma hai ragione, questo a stesso punto, adesso che bisogna andare il condominiale, tu sei dalle 11, puoi tranquillamente fare i seguiti bianchi. Beh, allora intendo correndo da una base all'altra nei regammari, non è tanto bello per chi ci abita sotto, capito? Quindi, sardini, già possono stare lì giugendo i buruvemmi, senza far rumori. Beh, quello sì, fa fastidio perché io l'ho provato e so che dà fastidio, capito? Però come orario, se certo uno non ti dice di sfasciare il pavimento, cazzo, e fare casino così, come orario sia alle 11 con l'economiale, per l'ora del mio palazzo, sia alle 11 tu puoi stare tranquillo. Pagazza, ma io noto che qua nel piano di su ci abitano una greffa di ragazzine. Ragazzine, io mi sto riferendo a bambine di 6 anni, il massimo che ha, la più grande, dai. Fai in Nagiadote, era più manna, era più minori 5 o 6. Comunque ne ha una greffa tipo 6 o 7 bambini, questo qua. Beh, non sento la mosca volare, non so cosa vuol dire. Sento, non solo a me ne butti per il casino, quindi è poco di fa. È lui casinista, capito? Non sa stare tranquillo, a ciappa rimanere di far rumori, quindi è inutile abbaire, dimmi no chi è. Deve contenere, perché a parte che si abbiano i contegno da un punto. A me lo dicono, e quindi devo stare io qui a zappurare i buchi, mi fate niente, non va bene, va bene. Anda bene, anda bene. Beh, cosa siete combinendo, di vedo. Ma io ieri a pescare, sono andato a pescare quasi tutto il giorno, certo. Cosa hai preso? Ho preso una bella lagna, una lagna che così grossa non l'avevo mai pigliato, tutto 100 grammi, già l'ho fotografata e l'ho fatto vedere. 800 grammi, quasi un chilo, cos'è la cosa? Così è, 800 grammi è quasi un chilo. È un bestione, una bella. Così grosso non avevo mai preso adesso. Stai dicendo che ho fatto una tattica che non mangiava nulla. Ah, ho preso la canna e ho cominciato a fare la traina, tipo come si fa per i calamari. Così, trainando col verme attaccato, a tutti i punti sentendo boom, ha seccato un ago e poi ha sentito la ferra, tutto questo qui è grosso, questo qui è grosso, l'ho tirata fuori, per una bestione. Gaba, è poco, non è più rigoroso, ami. Minimo c'aveva la spina un bel grosso, no? Le spine dei latti che c'hanno. E sembra famosa, quella che ha tolto fuori, quella nera che c'ha sopra, uia. L'amico stava andando a prenderla con le mani, che stava a fare la cucina. No, ma toccare, ho detto che è una lagna. Cioè, ma anche non la conosci, da, subito la conosci, è talmente brutta che se ti volevo vedere toccandola con le mani, non feci. Si vede subito, dopo rimane un bel spinosa come, non feci, no. Poi in quella misura deve essere allucinante. Va un capo e tu ci comette una brida. Piace di l'amico tuo, con le mani la pigliendi. Dai. Non si era abbizzato che era una lagna. Io subito l'ho visto, ho detto, cazzo, una lagna, bisogna abbizzo, mi ha detto, che bella. Ma o con un coltello o se no con un goppo e pusciano a baci, e come fai? La lasci morire da una parte. Tra l'altro è anche pericolosa morta quella lì. L'unica cosa da fare con la tronchesa nelle tagli la spina, quella che c'ha nei lati e quella di sopra nella schiena, ed è un po' credo più tranquillina. A me se ci sono bambini lì in zona. Allora adesso te lo dico una cosa, l'ho messa dentro il secchio, è stata quasi un'ora a stintino dentro il secchio, poi ci siamo spostati perché non si prendeva più, abbiamo preso una sugliola, un maccione di 10 anni e quella lì. Poi ci stavamo spostando verso il Polo Torre, siamo spostati al Molo di Polo Torre dove vado io, bagnava che cosa male in chimi, bagnava come tiro birani, allora non si attaccava. Erano boghe, perché dopo me sono attaccate due o tre e erano boghe, erano branchi di boghe. Il fatto sta che, cazzo stavo dicendo, l'ho lasciata senza acqua, da stintino a Polo Torres, era viva. C'è da Polo Torres, sono tornato a casa, andavo lì, era ancora viva. Madonna, gli ho tolto i minuzzi, pulita tutto quanto, l'ho messa in freezer, in frigorifero, la tocca alla mano e si gira la gola, e l'avevo cavato gli interiori pure. Ma tu c'ha morì, e poi cosa non è, non hanno, anche è pericolosa addirittura, quando la pesca, la taglia, la taglia a pezzi e si la rampira a spiaggia, è pericolosa anche così, anche se sei buono non mi riguai. Cioè un pesce usi di graziato rimane vivo, buro da moscio, fa zimari, buro da moscio, è micidiale. E mamma si era pulita una volta, si è trovata a fare pesca su qualche occhio, zuppa nella zona di Sorso, della banina di Sorso, lani, scorfani, tutta questa roba qua. Ho detto, ma stai attenta, no non ti preoccupare, glielo conosco il pesce, lo si è butta. Mi si è fatta tutta la mano aggruciupita, adesso ha tutto il braccio, lo dice a muovere anche, il braccio, tutto paralizzato, ma via. L'ho dovuto portare a portare su cosa e ho detto, signora, sicuriti perché sono dolorosissime queste punture. Non saranno mai dolorose, detto, quanto la puntura di questa animale, ne ha zicchito. E non c'avevi neanche un po' di... come ti si chiama chi su coso che si boni? Mica, anche la pipì fa bene, però c'è un... adesso non mi ricordo come si chiama. Palarmonia, ok. Però un bel uomo si dice quando ti punge qualche cosa del genere, sei in mare, non fai nulla, ti bisci la mano, così dice, no? Perché contiene ammoniaca o la pipì, quindi andava bene. Comunque da bloccato la mano, ho dovuto fare due iniezioni, rimanessi, riprendessi, l'altro sciupito la mano, ma te l'ho stato sciupito, come ti cano tu c'è un beneva, tu l'hai presente. Mi ha sciupito qualcuno, però non la, ma, non appunto la lagna. Praticamente è tuffato, è sicuramente vera in mezzo, come si chiamano quelli che sembrano funghi in mezzo al mare, ma adesso non mi viene, comunque c'era una di quelle, tu devi vedere a bolle bianche enormi, cazzo, tutto il corpo così era, mamma mia, lui diceva ma la febbre è alta anche, a Medusa, gava, ce l'avevamo pushata all'ospedale d'urgenza, cazzo di poco se morirò, altro che... Shock anafilattico, quello lì si chiama shock anafilattico. Infatti noi bisogna rubare un burro, ma te vai, no, te vai tranquillo, agguanti. Cazzo, dopo di un po' lo vedo bianco, e dopo queste chiasse bolloni, cazzo, ma bolle, bolle enormi, cazzo, proprio, deve essere che più di una è di una tuccato. E adesso se la vendi, pesca in mezzo alle rocce lui, ti prendi di rimani in violenta di danni, cazzo, hai visto cosa è successo? Infatti l'abbiamo portata all'ospedale, gli hanno fatto roba di iniezioni, voglia. Ci dava la menta mezzanto un gamba. Alessà, io dico una cosa, che c'è gente che si fa male a tutti la medusa, ma basta ci metti un po' di ammoniaca che ti passa tutto. Ma c'è gente che proprio è allergica a certi tipi di ustioni, di punture, di cose. Perché la medusa proprio ti ustiona, è come se ti bruciare i grumini. Io una volta ho visto questo uomo vicino a noi di ombrellone diventare bianco e tutte le bava la bocca, cazzo mi c'aveva la labbra attaccata, uno shock anafilattico di venuto, c'aveva la labbra attaccata, cazzo le aveva staccato l'acqua e cazzo comincia a massaggiarlo, si è fatto bianco bianco, ho detto chiamate 118 il freddo, se l'ha giù massaggiato e cose così così che ci ho fatto a farlo riprendere. Pericoloso perché praticamente quello lì è quasi un infarto. Sì, si entra in blocco, un arresto cardiaco, lo shock anafilattico è praticamente una persona che è allergica a quel tipo di puntura e invece che convenga altro reagire, nel senso che ti fa male un pizzicore, a lui blocca e fa arrestare proprio il cuore. Brava, quindi non è cosa da pigliare alla leggera, no? Cazzo, infatti noi la mia buffonella ridendo, ma da voi se l'hanno buttata all'ospedale a pallaburo, perché sennò, guarda, veramente svenuto, cioè siamo arrivati all'ospedale civile che era, non vera. Io le fanno subito un'iniezione, li passa tutto, le fanno un flebo ricoso, antidolorifico e coso, c'è un antidoto per queste punture di gente che allergica rapidamente. Non ne sonno. Comunque, cazzo, ricordo il giorno, come ti fosse avanti, freddo. Una cosa che ti prende all'improvviso, perché non te l'aspetti, se inghibi devi scendi, devi vendi, ti trovi, cazzo, con tutto quanto pieno di cosa ci accadure innanto, ma febbre dopo che ti dammi, pesante. A me mi era uscito perché lo vizio mio di magna patelli, cose, no? Adesso ormai non ne sto più toccando. E deve essere che ho toccato uno di quegli affari rossi, no? Cioè hai presente che sono attaccati nelle rocce. Chi su è Pavaroni, ma fatti un rabbia a capturarlo lei. Avvio, quella è la lemone di mare. Se deve essere che boh, incominciamo così, toccando, io non me la mentavo, ma niente, e cazzo non se mi incominciava a friggere le labbra, ho detto ma che cazzo, a un certo punto pure si ti sciacqui peggiori le cose, cazzo si sono fatti le labbra e vario, buon bumbo. Conta a Kinte. Che si sia, comunque gai, isso vario. Tanto ripeto. Lo sappiamo, ma molte volte lo fai volontariamente. Ci sono cose che noi non sappiamo che ci fanno, ma magari siamo allergici, capito? La mia comare la dovevano operare per una fesseria, mi pare che c'è valetto un sida, roba del genere. Hanno fatto l'anestesia, che a stagione non si è rimasto. Era lì circa. E lei deve fare tutte le operazioni, quella locale e basta. Beh, ma solo che la locale può prendere e non prende, tu lo sai benissimo, anche dal dentista a volte ti punta e senti il dolore. Vorrei che poi magari la soppirene si scenda e più. Quindi me lo ricordo. E ma lui doveva pagare il consiglio proprio perché era presa male. Ma di cui io prima fare le analisi, no? Se no, come faccio a sapere se è allergica o no? Poi c'è un medico, ma che c'è urgenze, che ci sono, nel senso che una si deve operare subito perché sennò si stufa poi. Ma poi non ti operano. Eia, e sono due. Poco tre. Vai, Cristian, avanti. Sono sempre qua, ma ciao Alessio. Ho fatto vedere quella simulazione di Fertiglia. E l'hanno fatto vedere Antenna 1. Ce l'hanno fatta, l'ho visto io. Beh. Anche perché per tenersi pronti in caso succeda davvero, ma allora bisogna tenersi pronti, capito? Ti mettono in allerta, no? Ti mettono in allerta, io per dire in prefettura c'è il numero, hanno il mio numero di telefono anche, di tutti i volontari del CISO. Se dovesse succedere qualcosa di grosso ci chiamano. Io sì. E c'è una catastrofe, cosa ti posso dire? Un allagamento grosso, cosa ti posso dire? La casa che è crollata, una cosa del genere, io ci ho detto sì perché. Uno che sono obbligati dal lavoro a darti le giornate che richiede la prefettura, i tipi per leggi non fuggi, te le devono pagare come giornate lavorative e te le devono dare obbligatoriamente. E io sì lo farei, allora perché sono volontario per niente. Farei come? E molto volentieri anche, piacerebbe farlo. Naturalmente dovremmo ricorrere, ma dico, se fosse necessità mi piacerebbe, anche per far vedere come lavora il CISO in tutte le occasioni. Vabbè, non ci stanno perché non sto bene, se no dopo ricomincio a andare, non è che è mollo. Ci stanno anche perché non sto bene. Altrimenti eravamo a pesca nella roccia, mi sono inchinato a mettere l'esca. Mi inchino e comincia a essere un capo, comincia a riuscire a fuggire, vedere un'altra roccia in bilico. E giù c'era il burrone col mare, c'era proprio la faradoggia da longa. Adesso mi sono visto perso, non ho detto un angelino, ma mi gioco manteso al botta canna. Oh, yeah. Ma rocca no, oh, e rocca non fa. Senti succede sul molo, Bosi vai. Però rocca è un casino, già ti devi tenere in bilico perché se tutte le rocce ti appunto subito. Beh, ci sono gli strapiombi, no? Strapiombi che poi arrivano in mare ci sono, però se uno è all'equilibrio tranquillo, vabbè, magari riduce da queste cose bisogna stare attenti. Piano magari no, perché se anche ti vede capogiro in spiaggia non succede niente. Magari vero strapiombo così, gonfio. Adesso beh, anche a me mi è capitata una cosa del genere già. Sai quando sei con i sandali, stavo andando a prendere la lenza che mi sono incocciata nella roccia, di cui si è risciugata a culo a terra, e di spalle sono andato su Gishido pensamento che ammoglio. Ma male è cazzo che non ho preso colpi forti alla schiena, capito? Ho nuotato nel gioco d'ora dei sci, ma mi è andato a vermi. Dopo ho incominciato a macinare però, cazzo mi è andato a vermi, se no mi ero fratturato, non gli ammoglio, mo c'ha negato, capito? Da solo, cazzo. Non mi sono più andato da solo, perché la verità è. Lo so, non fa andare nelle rocce proprio. Io ho avuto una brutta esperienza con un amico, stavo andando a pescare una notte e dovevo andare a Murene, a Grunghi, con le filaccioni, e ci siamo portati due canne. E ci hanno fermato a Porto San Nicola e Carabinieri, posto di blocco i Carabinieri, due giovani, uno li punta il mitra in faccia, questo amico che c'era il finestrino aperto e punta il mitra in faccia. Ci ha dato dalla macchina e lui gli ha detto scusi, ma non togli il mitra, che stava tremando. Ma non togli per cortesia il mitra dalla faccia, io non tolgo niente, ha detto guarda che non sono un delinquente, io non so se vedi delinquente o no, quindi scendo dalla macchina e faccio poche storie. si rifrugano in tutta la macchina, nel pubblicità a noi, hanno rifrugato tutta la macchina, hanno visto che c'erano le canne, dove state andando? A pescare. Ah, vero, abbiamo fatto amicizia, ci hanno detto, e loro ricapitano di tutto, hanno anche ragione. Detto, dove andate a pescare? Gli ho detto il punto. Ho detto, ah, vero, poi magari tanto siamo di pattuglia, passiamo e veniamo a trovarvi. Manco male che è successo l'usciaccia. Questa vittoria ci è caduta dalla luce, c'è sentito il baratto, sai che si attacca nel baratto le filaccioni quando mangia il grongo, la purè. Batto, bravo, Antonio, sta mangiando il grongo, mi sei più e non se non rifugi, ha già buttato, l'ha ricevuta la birra, non se ne era già visto, io. Praticamente c'era tutto lo strappio, ma si è fatto tutto rotolando, sopra le luci, tutti paccati. Disperazione mi è venuta, come faccio a sollevarlo da qua? Chiamate, aiuto, aiuto, siete carabinieri. Cosa c'è? Siamo carabinieri. Cosa c'è? Aiuto, aiuto. Cazzo, mi è ultimo, ho dato una mano, abbiamo curato prima la guardia medica di Posto San Nicola e poi dovevamo arrivare a ripigare a Sassari in ambulanza. Tu fratturato, frattura della scapola, tutto spaccato, nelle gambe, da tutte le parti. Ma non camminava, noi siamo a Capisassilli. Era svenuto e ci aveva i capelli a bagno nell'acqua, i capelli, cioè è caduto a testa in giù, i capelli praticamente toccavano l'acqua, solo i capelli per fortuna, sentava lunga mudrento, era fortissimo. Allucinante, magari non avevi fatto mancare tempo a Cavazzio. No, ma la sera anche a me, cazzo, devo andare da solo, non mi fido più, proprio barisa la voce. Sono pure sciggato, dove metto un imbecille? Cioè, sai, quella erbetta verde che ci sono le rocce. Cazzo, non hanno fatto attrito le scarpe lì, anche se erano sandali di serie. Cazzo, che tengono. Oh, lì sciggato. Cazzo, proprio la schiena in terra, capito? Ma fa il caso che mi avevi sbattuto la testa, devo fare da moglie. Infatti la moglie devo pure aggiudo, Mamma mia, lo sai dove? Alle acque calde. Come cazzo si chiama quel posto? Mica c'è una specie di centrale elettrica. Fiume Santa. E quella robetta si chiama Memma. Vedete, l'offia, cazzo, sembra, boh, a giudizio no, questo è basso tranquillo. Come ha messo il piede sopra il brimo, ciao, della più aderenza, capito? Quindi scivolato, sicuramente le sue soluzioni sono amico d'oio, Sì, lui è scivolato sopra quella erbetta che dici tu, quella merma lì, che sta su di scuglio. E scivolato e toccato, ha spatto un paio di volte dopo che si è salato, che ha spatto 3 o 4 volte e poi è caduto. Prima con la terra, poi ha rotturato, pigliato tutti i rocchi, e veniva da punzuti, ma poi non si è fatto, non si è ammazzato. Yeah, non mi arrivo se la voce una, Non è andata a burrupe, ma vabbè, va bene. Lascia la buccia, tu fendi, cazzo piglio, tiro lo slancio, scendo un bel po', dopo risalendo, ma già ho una montagna a casa, in mezzo all'acqua, nel mare. Perché sicuramente sono sceso un bel, no? Dopo risalendo, tirato la spinta nel fondo, andare un po' più in là. Cazzo mi ha cercato un gabbè a rocca, io che è stato svenuto, me ne ha regalato. Davvero? Ragazzi, non hai visto la cicatrice che c'è in fronte? Yeah. Da una volta, cazzo, da bello. Infatti sono, mi sembra, da quella volta che non vado al mare, cioè roba di 6 anni. E lo sa, e come mai dove ti sei tuffato la roccamana di Bari? Quella, l'altra, un po' più bassa rimane. Lì c'è gente che ha toccato la schiena e ci è rimasta, è stata paralitica, e intanto continua a tuffare. Ma lo sai cos'è? Ha giubilato il amico mio, si è seduto tranquillo, ha giubilato, beh, mi sono lasciato anche io, cazzo, ma non immaginavo che era, nel fondo giù c'erano rocce così grandi, capito? Uno non se lo immagina. Da voi lo venderò dopo e ciao. Da uno che quando uno tuffa deve controllarsi il fondale com'è prima. Prima di tuffare si deve controllare prima lo fondale, da voi già va bene. Faccia tranquillo e poi ti fa tranquillo, ma se uno vede che vi arrocca noi no cazzo, sembrava che c'era tutto quanto limpido, cazzo. E invece ma la suce fondale è traditore quello lì, infatti già è nominato che è traditore, un bariglietto va lasciato la spina dorsale, già lo so, già bisogna stare attenti, non è così, cazzo, non vedo certi che tu fai la volo d'angia, ci fanno la capriola e poi tu fai la volo d'angia. Pure io ero uno dei sicussi, mi piace a tuffa. Allora, dalla voce a nonna. Mi sa da domani. No, poi da quell'altra sera non ci riuscire, l'impatto che hai, boom, non ti fai trovare del gabbo. Beh, la tagli prima con le mani l'acqua. Ma se sbagli, la spanciata. Oh! Io non devi imbagliare, devi avere il tempo, no? Vabbè, l'agilità giusta e dopo ti devi dare lo slancio giusto per cadere dritto. No, non è facile a tuffare, io infatti tuffo un bel dritto, capito? La voce è entrata troppo dritto forse. Si è fatto troppo. Allora, cazzo, toccare un fondo, me che venne come? No, no, devi scendere di sbiecco, devi scendere, non dritto. Via. Poco lì. Da due. Cazzo, vai, la volta di Massimiliano. Poi c'è la Massimiliano, c'è il presente. Però quando è normale l'apparato. E io. Vaga. Sì, yeah. Sono ancora qua. Però non andava in uscita, no, fa vedere a me come mi metti il sonnellino, ma ti fa vedere. Ma io sto andando su Canale Italia, Nino Bausi. Ah, quello nuovo. Poi la versione vecchia. No, il canale Italia è nuovo. Sì, sì, è nuovo. Adesso ha trovato letto. Cosa? Canale Italia, un'altra TV hanno messo. No, alla Rosecco. C'è anche Canale Italia. Metti lo scalo, ti fa la scalarizzazione dei canali. Sicuramente bisognerebbe farglielo così, no? Gli faccio fare di nuovo la ricerca dei canali e salva la ciappa. Ehi, la scansione, per fare. Un po' vecchio, sto guardando, eh. Dai, è il vigile. Guarda, trova il pallone. Io ieri mi sono guardato al computer i film di Pierino. No, non basta, cosa canale? Ah, lo so, ho capito, ma c'era Pierino anche con Lino Banfi. Esatto, tutte le sono viste. E ci sono le sketch, vai su YouTube, poi metti Pierino e ti fai quattro risate. Sono così sul computer, esatto, non è quello il problema. Ah, non lo sai usare. No, uso quello della mia dolce metà, che adesso non ce l'ho più. Adesso te lo compri. E adesso dopo la tavola lo compro. Già lo so usare, sì. E che lo so usare? Metto di essere con Tiscali, solo l'inerente e basta. Tanto, ce l'ho fare il telecom, l'inerente solo Tiscali, l'inerente e basta ci passare. Ma intanto, tanto vuole tutti uno di fare di telefonare. Infatti. Tanto già il telefono cellulare, figurati. Anch'io il telefono poco. Guarda, io spendo massimo 15 euro al mese di telefonate. Io di più. Io il telefono per basso lo so tante, ma non. Per trattare anche il chiamo. Qui anche per stronzate, se un amico lo chiama non c'è problema. Quello anch'io, però ho una tariffa tracciata io. Alessà, e tu che tariffa c'hai? Che cosa? Io ho un Intel. Boh. Ogni tanto, anzi, addirittura me l'hanno bloccata adesso la scheda. Ho dovuto mandare mio figlio e me l'hanno sbloccata la scheda. Tu? Praticamente, cosa ha fatto Guru? Mi ha fatto mettere la pubblicità con il numero nelle pagine bianche. Anche io è una tariffa vantaggiosissima. Da 15 centesimi a un minuto, una gigantesca. Non ascolta la risposta. 15 centesimi però. L'Omitel mi pare che sia così in Vodafone. Io con la tariffa ce l'avevo roba di 10 anni, non ho scatto alla risposta, e pago 20 centesimi al minuto. Tariffai. Sono un po' da fondo. Io non ho fatto altro ricaricabile. Raga, se ne spendo 30 euro al mese, ne hanno 15, me ne regalano anche. Esatto. Io, non so se io tu spendo e tu mi ricarico, capito? Io con te facevo ce l'ho un bel danno ormai. C'è una Win, una Team e una 3 e una. Meo. Sì. Ci sono, ma non ci sono. Sto controllando la chat. Oh, qui. Sembra che c'è qualcuno a rompere le scatole. Sì, faccio subito la mossa di karate. Che mossa? per la diarrea. No, no, giù con un vura, che ti presto, quella lì è la voce di caratteri. Poi c'è la voce della diarrea, allora facevi prima. Gianni, doppio tutto, ha dormito si è? No, ci sono. Ma chi sei già? Ci sono... Siamo tutti sardi qua, c'è uno di Catania, tutti di Sassari siamo. Siamo di Sassari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 10, 10, siciliano. Siamo niente. No, gabbè, gabbè. Ma di positivo, gabbè, gabbè, gabbè, gabbè. Sto uscendo tu, già stai uscendo. Tipo di Viagra, numero uno sotto al limite. Però adesso, eppure io, però andiamo ancora a Manfredo, che devo andare a Napoli, raccogliendo l'info, non mi conviene. Pagato solo, una giornata a 100 euro, diciamo bene. 100 euro a giornata però, non mi conviene, perché non sei per 50 giornata. Non faccio andare, facevamo la testa, aspettare le pietre per 50 euro a giornata. Lo faccio cosa c'è in città. Ma io ho fatto anche la furia e ci ho messo mezz'ora, ci ho pagato 300 euro anche. Faccio porte blindate. E in 3-4 ore più guadagno sui da 200 a 300 euro. Che è il mio lavoro. Se voglio è così, se non voglio non si arrangino. Male, tic tic. Fa niente. Si sente. Si sente. Questo microfono, diciamo, un bel microfono. Questo anche di microfono, però già funziona bene questo apparato. È un po' modificato, però già funziona sempre bene, da anni. Anni svegliati. E si è collassato a letto. Tanto buonanotte. Alessia? Tanto, ciao, dai, chiudo pure io, domani mi tocca 3 ore di lavoro. E 3 ore me ne devo lavorare, dai, già tardi per me, poi mi sono anche riposato stasera. E sono un po' stanco, vai qua, vai là. Saluto a tutti e a domani. Ciao ciao, buonanotte. Ciao Gianni. Ciao ciao. Ciao qui. Via, va bene, ultima. Va benissimo. Per essere una modulante normale va benissimo. Capo. Ma ciao. Ciao Antonio, ciao Rogarie. Ciao, a domani, ciao. Ciao a tutti, a tutti, ciao, ciao.